Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:07:34. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. Il 349-238-6666 è il numero di SMS per intervenire in diretta, come sempre. Di cosa parleremo in questa puntata? Naturalmente parleremo ancora una volta della manovra. Come sapete, ci sono in ballo molte modifiche, c'è una proposta arrivata da alcuni parlamentari per un nuovo condono fiscale che però a quanto sembra la maggioranza esclude completamente. Nel frattempo si ragiona veramente a tutto campo sul contributo di solidarietà che, come avete appena sentito anche nel giornale radio, mette in agitazione persino il mondo del calcio e si discute della possibilità di aumentare l'IVA di un punto percentuale e già da qualche associazione, non solamente quella dei commercianti, si levano molte perplessità. Faremo il punto sulle ultime, sentiremo le voci di questa giornata, tra cui quelle del sottosegretario all'economia e quella della segretaria della CGIL. Parleremo di questo e ovviamente parleremo anche di mercati che oggi sono positivi. Il FTSE MIB guadagna 2 punti percentuali, il FTSE Share l'1,88%, meglio fanno le altre borse europee, Francoforte guadagna il 2,84%, Parigi il 2,05%, si era temuto una giornata negativa per Wall Street, invece qualche dato macroeconomico ha confortato gli indici, che comunque non è che vadano splendidamente, perché il Dow Jones guadagna lo 0,16%, il Nasdaq perde lo 0,28%, lo Standard & Poor's 500 guadagna anch'esso lo 0,17%. Da segnalare oggi, visto che ce lo chiedete sempre, il netto rimbalzo di Fiat, forse anche sulla scorta delle parole di Sergio Marchionne, avete sentito quelle che ha pronunciato sulla possibile discesa in politica di Luca Cordero di Montezemolo, però ha parlato anche dell'azienda. Comunque Fiat Industrial è il titolo migliore del listino, guadagna il 7,8%, e Fiat SPA, quella che produce le auto, il 6,63%. Questo è il quadro dei mercati, che comprende però anche le materie prime. Questo sarà un altro tema che affronteremo nel corso di questa puntata di Focus Economia, perché l'oro ha ritracciato, come si dice in gergo, si è sceso sensibilmente, mentre invece il petrolio è in risalita. Cercheremo di capire qua anche se ci sia stato un effetto Libia oppure no. Per il momento l'effetto che sembra sentirsi è solamente quello delle scorte americane che sono scese di 2.213.000 barili a 351 milioni circa. E poi infine ci porremo delle domande su che cosa sta facendo questa benedetta Germania. Oggi il presidente tedesco, Wolf, che è una figura in parte paragonabile, in parte assimilabile a quella che è il presidente della Repubblica italiano, sia con un ruolo non strettamente politico ma più istituzionale, ha fatto una cosa che è abbastanza rara: ha criticato apertamente, in maniera netta, la Banca Centrale Europea, dicendo non so se è veramente legale che la Banca Centrale Europea acquisti i titoli di Stato in blocco, titoli di Stato di paesi cosiddetti periferici, tra cui tra l'altro c'è anche l'Italia, costringendo peraltro il governo tedesco a dire, per carità, massima fiducia in quello che fa la Banca Centrale Europea. Certo che i segnali di tensione dalla Germania continuano ad arrivare, così come continuano ad arrivare a livello europeo. Sta rimanendo sotto traccia in queste ore la vicenda della Finlandia, che ha chiesto alla la Grecia ha fatto un accordo sottobanco, nella sostanza, a margine dell'accordo del 21 di luglio tra i capi di Stato e di governo europei, nel quale chiede dei cosiddetti collaterali, ossia di fatto dei depositi in denaro da parte della Grecia a garanzia del prestito, cosa che però non era prevista dall'accordo, e cosa che sta scatenando parecchie polemiche e parecchi problemi, perché altri paesi, la Germania stessa, dicono: ma insomma, ma perché lo avete fatto, l'ha fatto la Finlandia e non lo possiamo fare pure noi? E poi, quali soldi utilizza la Grecia? Utilizza gli stessi soldi che i paesi europei gli prestano? Il fatto sarebbe curioso, perché sarebbe nella sostanza una partita di giro. Insomma, la Grecia gira alla Finlandia del denaro che gli viene prestato dagli altri paesi europei, tra cui la Finlandia medesima. Questo è il quadro della giornata, i temi che affronteremo, le notizie in breve di oggi. Il petrolio, lo abbiamo detto, dopo i dati sulle scorte è salito ad un più zero di un più 0,5% a 85,88 dollari al barile, mentre invece è in netto calo l'oro. Già ci chiedete perché è sceso in maniera così sensibile, è il tema che affronteremo più avanti. Tra gli altri conta il balzo degli ordini dei beni durevoli negli Stati Uniti, al quale arriveremo tra un attimo. Comunque sono aumentati del 4% a luglio, è sceso fino a 1771,20 dollari l'once, la flessione più consistente dal dicembre del 2008, del 4,8%. Abbiamo parlato a lungo ieri di agenzie di rating. Le agenzie di rating, nel frattempo, in particolare Moody's, sono intervenute sul Giappone. Moody's ha tagliato il rating sul debito sovrano giapponese da AA3 a AA2 a causa del grande deficit di bilancio e dell'accumulo del debito pubblico giapponese sin dalla recessione globale del 2009. E poi ha tagliato anche il rating delle banche. Nel frattempo, dall'Italia arriva la notizia che la Consob ha di fatto rinviato il via libera alla registrazione, che vuol dire l'autorizzazione ad operare, per le agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's. Alla Commissione era stato richiesto un parere preliminare dall'ESMA, la European Securities and Markets Authority, e ha dato questo parere preliminare chiedendo documentazione integrativa a Moody's e Standard & Poor's. Insomma, le due agenzie non hanno integralmente soddisfatto i requisiti richiesti dalla normativa europea. Su Fitch, a quanto pare, si sta ancora lavorando. Interessante, visto che parliamo di rating, i dati sul deficit di bilancio americano. Secondo il Congressional Budget Office, ossia il servizio tecnico, l'organismo indipendente incaricato di fornire analisi economiche agli eletti americani, il deficit di bilancio americano si attesterà quest'anno a 1.280 miliardi di dollari. Per darvi un'idea, è l'8,5% del prodotto interno lordo, in calo rispetto ai 1.400 miliardi di dollari stimati in aprile. Nel 2012 si attesterà al 6,2% del PIL. Poi ci sono i dati che danno qualche segnale di speranza per l'economia americana rispetto a quel che abbiamo visto negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Gli ordini di beni durevoli a luglio sono aumentati del 4%, dato migliore delle stime degli analisti, che avevano previsto un rialzo del 2%. Mentre invece negativo è l'indice sulle richieste di mutuo immobiliare negli Stati Uniti. La scorsa settimana ha segnato una flessione del 2,4%, a pesare soprattutto il crollo delle domande di mutuo per l'effettivo acquisto di una casa. L'indice è sceso del 5,7%, il livello più basso dal dicembre del 96. Lo spread tra BTP e Bund, il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 10 anni, è più o meno stabile a 286,9 punti, mentre invece si allarga quello con i titoli greci, tra Bund e titoli greci, a 1582 punti, con il rendimento sui bond greci a 10 anni a 17,97%, al 17,97% come rendimento. I titoli a 2 anni hanno raggiunto un record al 40,47%. Le tensioni sono quelle che si accennavano prima, insomma il tema sul nodo delle garanzie di salvataggio. Nel frattempo si apprende che la Banca Centrale Europea avrebbe comprato nuovi titoli italiani e spagnoli, e si apprende anche che le banche dell'Eurozona hanno preso a prestito liquidità per 2,82 miliardi ieri dallo sportello di emergenza della BCE, un costo del 2,25%, molto superiore a quello di mercato. Un dato in forte aumento dai 500 milioni, scusate, del giorno prima. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi delle tensioni, della possibilità di un nuovo rischio liquidità per le banche. Ebbene, in realtà gli operatori di mercato interpellati dall'agenzia Radio Corriere Sole 24 Ore su questi temi dicono che è troppo presto per capire se si tratta di un segnale di una crisi bancaria. Non leggerei, dicono, vi leggo il virgolettato, più di quanto è dovuto nel dato, e un altro operatore ricorda che il dato sui prestiti di emergenza, anche prima della crisi, aveva un andamento altalenante senza che nessuno si preoccupasse. Infine vediamo l'indice IFO, quello tedesco che misura la fiducia delle imprese, è sceso ad agosto a 108,7 punti da 112,9 di luglio. E veniamo al primo tema di giornata, ossia la manovra. Sono un po' di dichiarazioni anche oggi, naturalmente sentiremo più avanti qualche dettaglio e anche qualche voce di questa giornata. Nel frattempo chiamiamo subito in causa, e lo chiamiamo adesso perché sappiamo che poi è impegnato sul lavoro di ricostruzione di queste difficili ore, di questi emendamenti che continuano a girare, Marco Rogari del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Allora Marco, le ultime. Le ultime, si è in attesa di questo vertice che c'è questa sera alle 7, vertice del PDL con i direttivi dei gruppi parlamentari del partito, per anzitutto giungere a una sintesi tra le posizioni dei cosiddetti frondisti e del resto del PDL, e poi per cominciare a definire una scrematura degli emendamenti. Diciamo che sostanzialmente a questo punto c'è un'intesa di massima già sull'idea di correggere il contributo di solidarietà, il prelievo straordinario sull'IRPEF, facendo salire la soglia minima fissata dal decreto sulla manovra, 90.000 euro, a almeno a 120.000 euro. E probabilmente ci potrebbe essere anche un aggancio di questo contributo di solidarietà con il quoziente familiare, anche in chiave di mantenere aperta una porta di dialogo con il terzo polo. Poi sicuramente ci sarà un intervento sui piccoli comuni, l'abolizione verrà in qualche modo addolcita, ancora si sta decidendo sulla misura, creando dei meccanismi di fusione dei soli servizi degli enti locali interessati. Mentre sulle pensioni resta il no della Lega, e quindi i margini di trattativa sembrano molto ridotti. Anche l'ipotesi del condono, che ieri era considerata molto gettonata, viene oggi di fatto accantonata. Da dove è nata questa ipotesi di condono, Marco? Era una spinta molto forte all'interno del PDL, diciamo da due direzioni arrivava. La prima parte dai sindaci, c'era Lanci, che è il presidente dal lato del PDL, che puntava sul condono per reperire le risorse per alleggerire il taglio appunto sugli enti locali. Come sapete c'è un taglio massiccio, significativo, e dallo stesso PDL in Parlamento erano state già depositate delle proposte appunto per ricorrere a un condono di tipo classico o a un concordato di massa, anche in questo caso per reperire risorse per, come posso dire, ridurre i tagli oppure altri interventi come il contributo di solidarietà. Una cosa, Marco, che ha abbastanza a che fare anche con i temi di mercato che abbiamo trattato la settimana scorsa, la famosa Robin Tax, ossia l'incremento delle imposte sulle imprese, nella fattispecie quelle dell'energia, era circolata a un certo punto l'ipotesi che venisse estesa anche ad altre aziende. Nel frattempo apprendiamo che l'autorità per l'energia e il gas sta esaminando la cosa per capire se possa avere un impatto sugli investimenti per quanto riguarda le società energetiche. Da quel lato che cosa si sa? Diciamo che la situazione è abbastanza ingarbugliata, perché ieri la manovra è all'esame della Commissione Bilancio del Senato, ma le altre commissioni, come sapete, sono chiamate a dare i loro pareri. La Commissione Industria, ad esempio, ha dato un parere affinché questa norma venisse ritoccata nella direzione di cui tu stavi parlando prima, per l'appunto. Però, ad esempio, questa mattina il capogruppo al Senato del PDL, Gasparri, si è detto nettamente contrario a modificare la misura sulla Robin Tax, quindi diciamo resta intricata la situazione, non si capisce se questo intervento, questa correzione ci sarà. C'è anche in questo caso una spinta molto forte dall'interno della stessa maggioranza, però per motivi probabilmente legati alla necessità di mantenere invariati i saldi c'è anche chi frena, come appunto Gasparri, che si è detto contrario. Quindi vediamo stasera che succede nel vertice, perché se ne discuterà sicuramente. Naturalmente. Infine, l'ultima cosa che voglio sapere da te, la questione dell'IVA, perché il tema è: se si modifica il contributo di solidarietà, com'è è probabile, il cui gettito era peraltro, da quel che abbiamo capito, già sovrastimato a prescindere, cioè già da come l'avevano fatto era sovrastimato, e quindi ancor più sovrastimato in questo caso, i soldi da qualche parte bisogna cavarli, non si interviene sulle pensioni perché la Lega non vuole, e quindi questa ipotesi di aumento dell'IVA è in gioco oppure no? Assolutamente sì, assolutamente sì, è in gioco. Si parla della possibilità di aumentare di un punto l'IVA ordinaria, cioè quella che adesso è il 20%, e l'aliquota ridotta, cioè quella che è il 10%, mentre non scatterebbe l'aumento per l'aliquota minima del 4%, ovvero quella che riguarda, diciamo, i generi di prima necessità, per intenderci i beni alimentari, la prima casa e quant'altro. Il problema dov'è? Che diciamo, secondo il Tesoro, almeno nei giorni scorsi, c'erano delle perplessità sull'inserimento di questa correzione della manovra. Si proponeva di aspettare l'esame della delega fiscale, che dovrebbe cominciare subito dopo l'approvazione della manovra da parte del Parlamento, mentre naturalmente il PDL, perché servono risorse, preme affinché questo intervento venga introdotto direttamente nel decreto che è l'esame del Senato. Quindi anche su questo, cioè, direi che la correzione dell'IVA appare molto molto probabile. Sul veicolo che verrà scelto bisogna anche in questo caso attendere questa sera e forse anche i giorni prossimi, perché bisogna vedere anche la Lega che cosa dice. Vedremo che cosa succederà anche qua, tutto in evoluzione come sentite. Grazie a Marco Rogari del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Naturalmente buon lavoro Marco, buonasera. Grazie a voi, buon lavoro. Io vi ricordo tra l'altro che ampio spazio sarà dedicato domani dal Sole 24 Ore alla manovra, con uno speciale, ci sarà anche uno speciale sui mercati, mentre prosegue anche il dibattito sempre sul Sole 24 Ore sulla proposta di Eurobond, della quale ieri vi abbiamo raccontato, di Romano Prodi e Alberto Quadrio Curzio. Noi, visto che abbiamo parlato di IVA con Marco Rogari, facciamo il punto su come è strutturato, già qualcosa Marco Rogari ci accennava, su come è strutturata l'IVA a seconda del tipo di prodotto, in questo approfondimento di Valentina Furlanetto. Scherzandoci su, si potrebbe dire che all'IVA italiana non piacciono i bambini. Se si va a spulciare la legge che regola l'imposta, si scopre infatti che i beni destinati ai più piccoli e pagati dalle famiglie non sono ritenuti generalmente di prima necessità. L'imposta sui consumi, secondo i paletti posti da Bruxelles, può oscillare fra il 15 e il 25% ed è dentro questi confini che si possono muovere le modifiche in discussione al Senato. Al momento, in Italia, si paga il 20% di IVA, ma esistono due aliquote ridotte, una al 4% per i beni di prima necessità come pane, latte, acquisto della prima casa, ma anche, ad esempio, per il materiale tipografico attinente alle campagne elettorali, mentre non vengono ritenuti di prima necessità latte artificiale e pannolini per neonati. Un po' più alta l'aliquota al 10%, che si applica a bar, ristoranti, alberghi, ma anche su molti prodotti alimentari come carne e ortaggi e all'energia elettrica. Al 10% anche l'aliquota su caramelle e cioccolato, che nel 2006 si tentò di portare al 20%, ma poi non se ne fece più nulla. Curiosamente è ridotta al 10% anche l'aliquota su mobili d'antiquariato e francobolli da collezione, mentre resta al 20% quella sulle auto, anche usate. In Europa, ogni paese, all'interno dei confini fissati da Bruxelles, ha le sue regole. Si va dal 15% in Lussemburgo al 25% applicato in Danimarca e Ungheria. Anche per i beni e per i tabù non c'è uniformità. Ad esempio, l'abbigliamento per bambini è storicamente esente IVA in Gran Bretagna e Irlanda, dove nel 1982 il governo ha rischiato di cadere per aver tentato di imporre l'imposta sui vestiti dei più piccoli. Questo il quadro, come avete sentito, è interessante che ci sia un'IVA al 10% sui francobolli, non quelli da usare, insomma, quelli da collezione e i mobili di antiquariato, quindi forse qualche margine di intervento evidentemente c'è. A proposito di margini di intervento, sentiamo il sottosegretario all'economia, Luigi Casero, al microfono di Alessandra Schepisi, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato. Tagli devono essere tagli e non si possono mischiare nuove tasse con tagli. Poi su tante proposte potremmo incominciare a discutere, vedremo, però sicuramente ci sono 10 giorni di discussione ancora e di votazione in commissione e su questo uno spirito deve essere uno spirito costruttivo. No, i tempi sono quelli che abbiamo dato e sono tempi che vengono accettati da tutti e mi sembra che sia giusto, una manovra complessa, difficile, una manovra che deve portare, è anche molto più importante riuscire a portare anche uno spirito costruttivo, quindi io penso che i tempi siano quelli, domani sentiremo un po' le parti sociali. L'idea nostra è che a tagli si devono corrispondere tagli, non ci sia invece un passaggio fra nuove tasse per coprire i tagli, cioè diciamo che l'Europa, i mercati ci chiedevano una manovra di dimagrimento di una parte di risorse dello Stato e una parte di prelievi aggiuntivi. Noi vogliamo mantenere quell'impatto lì. Nell'entità complessiva mi sembra che la Lega abbia una posizione ben definita, dicevo, ne discuteremo nei prossimi giorni, ma mi sembra che per ora non vedo dei grandi margini di discussione. Però. Come avrete intuito, quest'ultima frase del sottosegretario Casero era dedicata al tema delle pensioni. Abbiamo una breve pausa, poi abbiamo altri 2-3 file e poi parleremo di materie prime. Le 17:33 minuti e 6 secondi e ci dite, mi risulta che ci sia l'IVA al 10% anche su molti lavori effettuabili per la casa come ristrutturazioni e così via. Effettivamente la finanziaria 2010 aveva reso permanente il regime agevolato IVA del 10% sulle ristrutturazioni. Detto ciò non ci sembra uno scandalo, invece ci scrivete il 4% sulla tipografia per i cartelli pubblicitari, beh insomma se non è uno scandalo poco ci manca, così come quello sui mobili d'antiquariato. Ci chiedete anche ma perché non si parla più della extra tassazione degli scudati, insomma, questa ipotesi che era stata lanciata dal Partito Democratico di ritassare i capitali scudati. L'altro giorno l'abbiamo spiegato molto bene qua in studio con Gianni Trovati, perché la cosa crea, e probabilmente anche il PD a un certo punto se ne è reso conto, non pochi problemi, innanzitutto perché quei capitali sono stati scudati come anonimi e quindi valli a recuperare, prima cosa. Seconda cosa, una questione tra virgolette morale, adesso so che questo vi farà inorridire, però il punto è che lo Stato ha fatto un patto con queste persone e ritornare a chiedergli a batter cassa vorrebbe dire tradire questo patto. In secondo luogo, poi, una questione più tecnica, l'elevatissimo motivo, proprio per il motivo, per la questione appena detta, l'elevatissimo rischio di contenzioso, rischi di fare una cosa che due giorni dopo è completamente bloccata dai contenziosi. Andiamo ad ascoltare qualche altra voce. Nel frattempo l'intervista realizzata da Alessandra Schepisi, con il senatore di Future Libertà e presidente della Commissione Finanze del Senato, Mario Baldassarri. Noi diciamo innanzitutto che ci sembra partita una gara stranissima alla quale non vogliamo partecipare tra varie forze politiche, che è quella magari di criticare le tasse proposte dal governo per sostituirle con altre tasse, quindi tasse su tasse. Noi invece diciamo che occorre partire dal taglio delle spese correnti, non orizzontale e generico come fatto finora, ma verticale e puntuale su due voci specifiche: acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e fondi perduti, che secondo noi nascondono aree di sprechi, malversazioni, aree grigie tra economia e politica, cioè nascondono i veri costi della politica che, come detto dalla Corte dei Conti, sono stimabili attorno a 50-60 miliardi di euro l'anno. Ciò detto, nel merito del gioco tasse su tasse, noi diciamo che non sembra accettabile sostituire il contributo di solidarietà con un aumento dell'IVA. Contributo di solidarietà in linea teorica potrebbe anche avere elementi di positività, nel senso che chi ha più reddito dà un contributo. Diventa inaccettabile quando si fa pagare ai soliti noti e tartassati e per di più diventa un incentivo maggiore all'evasione. Ma addirittura sostituirlo con un aumento dell'IVA significa non ricordarsi che l'IVA è un'imposta indiretta, quindi regressiva, è pagata di più dalle fasce di reddito medio-basse e di più dalle famiglie più numerose. Quindi, per correggere il male del contributo di solidarietà, si introduce un male ancora peggiore, che è quello di sostituirlo con un aumento dell'IVA. Beh, non male la battuta sul tema del patto dello Stato con i cittadini. Ci dite, lo Stato ha fatto un patto anche con me quando ha aperto la partita IVA, quindi cosa devo fare? Aprire un contenzioso? Vabbè, insomma, adesso non addentriamoci troppo. Nel frattempo sentiamo Susanna Camusso, segretaria della CGIL. Sentiamo. L'incontro del 4 agosto. E l'incontro poi dei giorni successivi, a pochi giorni dalla manovra, se non erro era il 9 agosto, sono stati due incontri avvilenti, nei quali il governo non solo non ha ascoltato quello che gli veniva detto e richiesto, ma ha cercato di convincerci alla vigilia della lettera della BCE e dopo la lettera della BCE che non c'era nessun problema per il nostro paese. Lascio a voi giudicare allora chi è responsabile o irresponsabile in questo contesto. La manovra di agosto è a nostro avviso sbagliata, sbagliata perché non determina crescita, è ingiusta perché taglia il reddito e le condizioni di welfare dei cittadini, è bugiarda perché non è vero che quella manovra è costruita sulla base di saldi che permettano al Paese di rispondere alle esigenze che ci sono. È bugiarda perché risponde a un vento preoccupante che è quello dell'antipolitica, decidendo di salvare il palazzo e di scaricare sugli enti locali la responsabilità della politica. È centralista perché decide che lo Stato non interviene ma taglia tutte le risorse alle amministrazioni locali. Poste contro la crisi, ci scrive Stefano, basterebbe dimezzare il prezzo dei carburanti per far ripartire l'economia, ma chissà.

C'è stato sul prezzo molto veloce, proprio un mordi e fuggi. Il Brent aveva avuto un ribasso di circa il 3% nell'immediato, quando si era saputo che i ribelli erano a Tripoli, che effettivamente Gheddafi sembrava caduto, anche se insomma ancora non l'hanno neanche trovato. Però insomma la guerra volge effettivamente al termine, sicuramente c'è stata una svolta che fa sperare in una ripresa delle esportazioni dalla Libia, che prima della guerra, prima di febbraio, erano intorno a 1,6 milioni di barili al giorno, che non è tantissimo a livello di equilibri mondiali, circa il 2% dell'offerta mondiale, ma che comunque all'80% arrivava in Europa, arrivava sui mercati europei, per cui il Brent è quello che ha reagito di più, perché è il riferimento europeo per il greggio, e che comunque sono opportuni e necessari per ristabilire un po' di equilibri sul mercato. Sicuramente gli operatori sui mercati petroliferi sono distratti da altri temi, Jackson Hole, di cui si parlava prima, che è un forte sostegno per le commodities, e sicuramente però c'è stata una riflessione sul fatto che non sarà semplice né veloce riportare il petrolio libico ai livelli pre-guerra in tempi rapidi, non sarà molto facile, non si sa neanche bene in che condizioni sono le infrastrutture, anche se non ci sono pozzi che sono saltati in aria come ai tempi della guerra in Iraq. Scusate, sicuramente ci sono danni, i campi petroliferi sono stati abbandonati molto velocemente, quindi per riportare anche soltanto a pressione i pozzi petroliferi ci vorrà tempo, ci vorrà manutenzione, ci vorrà un minimo di tranquillità per riportare squadre di tecnici nella zona, che al momento non è cosa ancora. Naturalmente. Grazie dunque a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore per questi chiarimenti e buonasera. Buonasera. Noi adesso abbiamo la viabilità e poi parliamo di borsa. 17:46 minuti e 30 secondi. Nego che non parliamo mai di evasione, come ci scrivete via SMS, perché ne parliamo praticamente sempre. E l'IVA sulla frutta e verdura non è al 10 ma al 4%, ci scrivete, lo sappiamo e lo abbiamo detto anche nella nostra scheda. È il momento della borsa. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. Allora, tutto bene oggi, per fortuna, o quasi? Oggi una riscoperta del settore industriale, una buona indicazione negli Stati Uniti dagli ordini di beni durevoli del mese di luglio, che sono cresciuti del 4% contro attese del 2%, c'è anche l'attesa su ciò che il presidente della Fed, Ben Bernanke, potrebbe dire venerdì nell'incontro con i banchieri centrali a Jackson Hole, e il mercato ne ha tratto giovamento, più che altro a preso questi elementi come un'occasione per andare ad acquistare soprattutto sul settore auto, sul settore chimico, sul settore industriale, su quello delle costruzioni, cioè proprio sui settori che fino a ieri erano stati molto depressi, quindi di prezzi anche bassi, quindi una certa tendenza alla ricopertura, e abbiamo visto, tu ne hai parlato in precedenza, come l'andamento dell'oro abbia corretto, quindi un piccolo segnale di ricopertura, quindi in controtendenza, quindi una maggiore propensione al rischio, almeno per la seduta di oggi. Vedremo se questa sarà solo un episodio, oppure se questa tendenza si trasformerà, se questo risultato di oggi si trasformerà appunto in una tendenza. Nel frattempo l'America è a ridosso della parità, il Dow Jones cede lo 0,03%, il Nasdaq lo 0,45%. Parlavi degli industriali in genere, però Fiat fa sé oggi con l'SPA che guadagna il 6,63%, l'Industrial il 6,83%. Mi sembra di capire che non sia solo un rimbalzo, ma anche abbiano pesato le parole di Marchionne. Beh, certamente, innanzitutto va detto che il settore è andato molto bene, perché ha guadagnato oltre il 4,5% in tutta Europa, e quindi questo è stata la base, diciamo, per il rialzo significativo di Fiat che abbiamo visto e che tu hai indicato nella crescita maggiore del 6% sia per Industrial che per appunto la SPA. Poi certamente le indicazioni di Marchionne hanno pesato, perché Marchionne è andato a riconfermare quello che sono i target industriali e finanziari per il 2011, ha rimandato a fine terzo trimestre per quello che sarà una nuova riconferma dei target oppure una revisione dei target stessi. Ha detto che la società non ha nessuna necessità di fare ricorso a un aumento di capitale, quindi a un'iniezione di mezzi freschi, e questo ha permesso a Fiat, diciamo, di fare anche meglio dell'indice europeo già molto vivace. Allora, bene anche Pirelli sulla scia di tutto questo, naturalmente un 4,56%, bene Enel Green Power più 3,95%, abbiamo parlato poco fa della Robin Tax, ci sono ipotesi di cambiamento che potrebbero riguardare in particolare le rinnovabili? Sì, certamente il tema Robin Tax oggi ha tenuto banco in borsa su diversi settori, si è ipotizzato che sulle rinnovabili ci possa essere un cambiamento, cioè non, ci possa non essere una aliquota al 10,5% così come per il resto del settore energia, ma ci possa essere una modulazione più vantaggiosa per le società delle rinnovabili e nel Green Power, quindi sarebbe la prima certamente a beneficiare di una tassazione per quanto gravosa ma inferiore a quello che ci si attendeva. Poi dall'altro canto va detto che il tema Robin Tax ha tenuto banco anche per quanto riguarda Atlantia e Telecom Italia, visto che si è ipotizzata un'estensione al settore autostrade e al settore telefonico, tant'è vero che entrambi hanno perso, e le ipotesi di un'estensione anche al settore aeroportuale ha penalizzato i titoli appunto delle società di gestione degli scali aeroportuali. Meno 3,36% Atlantia, meno 0,73% Telecom Italia. L'ultima cosa che ti chiedo è la Popolare di Milano, ne abbiamo parlato ieri, giù dello 0,25%, domani c'è la semestrale, ma brevemente Andrea, anche la questione dell'aumento di capitale sul piatto. Certamente, ieri diciamo che la società era stata penalizzata oltre che da ovvi realizzi, visto che era stata uno dei pochi titoli a tenere la scorsa settimana, ma anche da queste indiscrezioni sulla possibilità di uno slittamento o meno dell'aumento di capitale, un aumento di capitale corposo da 1,2 miliardi. La società, per la verità, in un comunicato ha detto i tempi saranno quelli previsti, quelli annunciati, quindi insomma probabilmente con la fine dell'estate, con l'autunno, con l'inizio dell'autunno, la macchina diciamo procedurale dell'aumento di capitale verrà messa definitivamente in moto. Certo, il mercato domani attende i conti per la Popolare di Milano, per il Banco Popolare venerdì, che ha perso oggi l'1,6%, insomma gli istituti di credito che mancano ancora l'appuntamento con la semestrale oggi hanno un po' sofferto, sono stati un po' penalizzati da attese non troppo brillanti. Grazie dunque ad Andrea Fontana di Radio Cori Il Sole 24 Ore, buonasera Andrea. Grazie a te, buon Simone, buonasera. Ci dite che scorrendo il listino si vedono solo variazioni negative, non riuscivo a capire di cosa stiate parlando, perché in realtà ci sono solo 4 titoli in negativo oggi, giù appunto la Popolare di Milano dello 0,25, Telecom Italia dello 0,73, il Banco Popolare dell'1,66, Atlantia del 3,36%, il resto sono praticamente tutti in positivo. Unicredit, anche i bancari, Unicredit che guadagna l'1,83%, UbiBanca l'1,39%, il Monte dei Paschi l'1,26%, bene anche Mediobanca che guadagna l'1,06%, insomma non c'è un granché di negativo oggi sul mercato, fatta eccezione appunto per l'America. Altri titoli di giornata: positiva Mediaset dell'1,24%, tra i bancari ci siamo dimenticati, il Monte dei Paschi che chiude con un rialzo dell'1,26%, Diasorin dell'1,75%, bene Mediolanum che guadagna l'1,85%, Snamrete Gas l'1,91%, Enel il 2,24%, Intesa San Paolo il 2,28%, A2A il 2,5%, Generali il 2,6%, bene Tols e Buzzi entrambe guadagnano il 2,7%, ST Microelectronics il 3%, Azimut il 3,13%, Saipem il 3,23%, Ansaldo il 3,29%, Tenaris il 3,5%. E con questo abbiamo chiuso sui mercati e veniamo a parlare di politiche europee. Ci sono un paio di nodi da sciogliere ancora dopo quel famoso vertice del 21 luglio e soprattutto vogliamo capire insieme a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera Beda. Buonasera.